Pellizzari lo sa. Perché questa è la Techno Music. Questo è il suono di Roma e si deve ballare, ballare e ballare. Thank you. motherfucker. I'm totally and completely on his dick. We'll be right back. Teleradio Radio Centro Italia. Dai. Sale, il panico totale, è il virus che sale, e questo è il panico totale, è il virus che sale, e sale il virus, il panico. Outro.